Investire informati. Allora, lo diciamo subito, così oggi i nostri ascoltatori non hanno scuse. Siamo in diretta live su Facebook. Salutiamo tutti quanti dalla nostra telecamerina, perché abbiamo notato appunto che non appena informiamo i nostri ascoltatori di questa novità, che peraltro è molto così, insomma, che sulla quale stiamo insistendo da un po' di puntate, subito vanno a vedere se siamo ben truccate, se siamo a posto, se siamo in ordine. È sicuramente molto in ordine il nostro ospite di oggi, Fabio Galli. Facciamolo vedere bene. Direttore generale di Assogestioni, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ormai ogni anno ci ritroviamo qua fissi alla vigilia del nostro salone, del vostro salone naturalmente. Adesso andremo a raccontare tutte le novità di quest'anno. Prima di partire però volevo, siccome è un tema che abbiamo seguito costantemente per i nostri ascoltatori, volevo dare le novità sul tema dell'offerta di transazione che era stata proposta appunto nelle scorse settimane agli azionisti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. L'offerta si è conclusa 2 giorni fa, non ha raggiunto l'obiettivo dell'80% che si erano prefissate le due banche, perché nel caso di Veneto Banca le adesioni all'offerta di transazione sono arrivate a circa il 73% del totale, per quello che riguarda appunto Banca Popolare di Vicenza sono state invece circa il 71,9% del totale. Questa è la novità. I board appunto delle banche sono orientate adesso a rinunciare alle condizioni sospensive dell'80%, avevano detto se raggiungiamo questa soglia andiamo avanti naturalmente con l'operazione di riconoscimento di questo indennizzo agli ex azionisti appunto, altrimenti no. E invece a quanto pare accetteranno anche questa soglia inferiore con questa decisione che sarà ufficializzata probabilmente nei consigli delle banche a metà aprile. Quindi questa è la novità e magari nei prossimi giorni ci torneremo un po' più dettagliatamente. Direi di partire subito invece con i temi del Salone del Risparmio. Fabio Galli, allora, da martedì 11 aprile parte la 3 giorni dedicata all'industria del risparmio gestito. Come sempre ci saranno professionisti del settore, anche esperti internazionali, anche qualche politico, tutti insieme per discutere delle sfide dell'industria del risparmio per i prossimi anni. Ma le famiglie italiane, Galli, risparmiano ed investono ancora i ritmi che hanno sempre caratterizzato storicamente il nostro paese o ci stanno un po' ripensando? No, la propensione al risparmio rimane molto buona per le famiglie italiane. È una questione, come tutti i fattori culturali, è molto profondo, quindi non ha variazioni forti. Ovviamente si è notato che a seguito della crisi, del primo momento di crisi, si siano utilizzate delle risorse anche per far fronte al contingenza, ma oggi le famiglie italiane rimangono tra i risparmiatori più forti dei paesi occidentali. Tanto è vero che se c'è un punto di forza è proprio il fatto che il settore privato, cioè le famiglie e le aziende, soprattutto le famiglie, generano risparmio, mentre in molti paesi che apparentemente sono più solidi dell'Italia perché non hanno il nostro debito pubblico, in realtà in quei casi le famiglie in realtà sono indebitate. Questa forza rimane vera, siamo un paese di prudenti, forse perché abbiamo la sensazione che non c'è un sistema istituzionale che ci sorregge, quindi sappiamo che ce la dobbiamo un po' cavare, quindi a livello familiare le persone risparmiano. Poi ovviamente ognuno ha della sua capacità di risparmiare, può variare anche in maniera profonda, è evidente. Non è detto che sia strettamente correlata al reddito, anzi la forza del risparmio italiano è dovuta al fatto che anche le famiglie meno abbienti risparmiano. Qualche volta si rinuncia anche a consumare un po' pur di continuare ad accantonare. Certo, e questo è il problema sul lato macroeconomico, dove il risparmio ovviamente fa sì che non ci sia quella domanda interna che sostiene la crescita. Però è anche vero che dà solidità al sistema nel lungo termine, soprattutto se quel risparmio viene ben investito. Ha citato questo termine molto importante, il tema macroeconomico. A inaugurare l'edizione 2017 del Salone sarà il presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, che peraltro, anticipo già ai nostri ascoltatori, sarà anche ospite di una nostra puntata in diretta dal Salone del Risparmio. La plenaria, che lo vedrà protagonista insieme al ministro dell'Economia Padoan, ne sarà intitolata Inseguendo la crescita. Vi proponiamo questo brano tratto da questo filmato che potete vedere anche pubblicati sul sito del Salone del Risparmio. Sentiamolo, poi lo commentiamo insieme. Crescita debole, tassi di interesse prossimi allo zero, l'avanzare di un sentiment populista e antiglobalizzazione stanno mettendo a dura prova l'economia globale e ancor più quella del nostro paese. Politica e banche centrali sono alla ricerca di soluzioni efficaci, ma non paiono coordinarsi sull'uso degli strumenti a disposizione. Il risparmio, l'oro nero del paese, potrebbe tradursi in investimenti crescenti anche grazie al recente lancio in Italia dei piani individuali di risparmio, strumenti che potranno fare da volano per politiche di sviluppo di lungo termine a favore di imprese ed infrastrutture. Al Salone del Risparmio, l'industria della gestione si interroga sulle opportunità che 2.000 miliardi di risparmio possono cogliere grazie alle professionalità messe in campo dal settore. Abbiamo rubato un lavoro fatto da voi, Galli. Insomma, che cosa sono intanto questi piccoli video educational un po' che avete proposto ai fruitori delle notizie del sito? Il salone non è una conferenza, sono più di 100 conferenze, quindi ci sono dei percorsi tematici. Questo è il percorso tematico principale, un po' quello che sta al centro della riflessione che vogliamo portare a fattor comune, vogliamo mettere insieme, discutere insieme. E l'idea è che la politica oggi, la politica a livello globale, non solo a livello italiano, non aiuta a dare, soprattutto a trasmettere fiducia. E il meccanismo di investimento è un meccanismo che si fonda sulla fiducia, perché noi mettiamo i nostri soldi, li teniamo da parte per investimenti che durano negli anni, se uno non ha fiducia difficilmente. Quindi c'è questo meccanismo politico e poi ci sono degli strumenti, gli strumenti concreti, politica fiscale e politica monetaria. La politica monetaria è stata spinta fino al limite, ha dato tutto quello che poteva. Dalle banche centrali. Dalle banche centrali, in particolare la banca centrale, la Fed e la Banca Centrale Europea. La politica fiscale no, come sappiamo esistono due visioni, una visione tedesca che dice che la politica fiscale non può essere utilizzata veramente per spingere la crescita, e una visione invece sud-europea che dice che bisogna andare contro il ciclo, quindi proprio in un momento di depressione della crescita bisogna usare la leva fiscale. Manca quindi a livello europeo questo coordinamento che aiuterebbe. La politica fiscale è stata usata sicuramente dai cinesi in maniera estrema in questi ultimi 30 anni. Allora tutte queste cose devono essere messe a fattor comune, perché se vogliamo investire bene i soldi, che abbiamo capito che li mettiamo da parte, però poi dobbiamo investirli bene. Un tempo li investivamo facilmente con dei titoli di Stato, con una seconda casa. Questo non è più, non dà più quei risultati di un tempo. No, il titolo di Stato tradisce un po' oggi, addirittura con i rendimenti negativi. Peraltro oggi il Tesoro italiano torna sul mercato addirittura con una nuova emissione a 50 anni, dopo averlo fatto appunto nei mesi scorsi. Chiusa parentesi, poi vedremo come andrà questo collocamento. Tra l'altro queste emissioni sono importanti, perché l'allungamento della durata del debito pubblico. Sono emissioni che normalmente vengono comprate dai grandi investitori istituzionali, fondi pensione, fondi comuni investimento, che poi sono quelli in cui noi mettiamo i nostri soldi, no? Io penso che anche voi abbiate degli investimenti, i miei sono per esempio sia in fondo pensione sia in alcuni fondi comuni, e quindi poi c'è un gestore che va a vedere, perché un'emissione a 50 anni ha delle caratteristiche tecniche molto particolari, e fare un investimento con quel tipo di durata significa fare una riflessione sull'inflazione a lungo termine. Assolutamente, quindi insomma facciamo una bella riflessione, uno strumento non adatto a tutti. Allora, ritornando e soffermandoci, rimanendo sul tema della crescita economica, che è il grande tema di questa edizione appunto del Salone del Risparmio, dottor Galli, la crescita economica si cerca disperatamente, per il nostro paese è ancora la grande assente da ogni dibattito, abbiamo un PIL un po' più asfittico rispetto a quello appunto che raccontano invece le altre economie europee. Non è un caso che quest'anno saranno i PIR i protagonisti del Salone, i piani di risparmio che ormai sono in fase di lancio da parte di tutte le società di gestione. Noi anche con lei nelle puntate a cui ha partecipato negli anni passati, l'anno scorso, se ne parla da molti anni, ora sono una realtà concreta. Ci spiega un po' che aspettative ci sono rispetto al lancio di queste nuove soluzioni di investimento, che vogliono non solo rappresentare una nuova opportunità per i risparmiatori, ma soprattutto fare in modo che un po' anche di quel risparmio privato di cui parlavamo prima si trasferisca all'economia reale, visto che la politica monetaria non ci è riuscita fino in fondo. Allora, possiamo dire sicuramente due cose. L'incentivo fiscale che è stato disegnato con questa norma funziona bene, nel senso che è molto efficace. Diciamo è ridotta l'aliquota sul capital gain. Se facciamo un investimento che dura almeno 5 anni, non paghiamo nessuna tassa. Ora, quindi vuol dire risparmiare il 27%, il 26% dell'imposta, e quindi stiamo parlando di qualcosa di molto molto rilevante. Su 5 anni, soprattutto se abbiamo rendimenti del 2, 3, 4% certo. All'anno, stiamo parlando di soldi. Le aspettative di rendimento sono sempre ovviamente ragionevoli, Ogni persona fisica può investire ogni anno 30.000 euro fino a 150.000 euro. Una famiglia di quattro persone, questo vale anche per i minori, quindi una famiglia di quattro persone può investire fino a 120.000 euro all'anno e fino a 600.000 euro in 5 anni. È un incentivo fiscale molto forte e porterà delle risorse verso la piccola e media impresa italiana. E vi voglio dire che è vero che la crescita italiana è stata asfittica, soprattutto rispetto alla crescita che altri paesi hanno saputo realizzare, ma ci sono comparti dell'economia italiana che vanno molto bene. Quindi ci sono molte aziende dinamiche che ovviamente riescono a crescere grazie all'innovazione e all'export. Esatto, quelle che hanno puntato soprattutto sull'estero, ovviamente quelle che hanno continuato a puntare sul mercato domestico sono state più. E queste aziende devono raccogliere risorse, lo faranno molto meglio direttamente, diciamo bypassando, quindi non andando direttamente sulla banca. Ora, ci vorrà un po' di tempo, sappiamo già che questo tipo di investimento, di prodotto agevolato fiscalmente sta incontrando un grandissimo successo, cioè i primi numeri sono molto importanti. Noi vogliamo fare il punto della situazione a fine anno per vedere esattamente quali sono stati gli afflussi di risorse. Cercheremo anche di misurare qual è stato l'impatto effettivamente sulla capitalizzazione della piccola e media impresa e quindi su quanto questo aiuterà l'Italia a creare un mercato dei capitali della piccola e media impresa che potrebbe essere finalmente un punto di forza del sistema finanziario italiano. Noi siamo al di fuori della logica della finanza delle grandi imprese, perché abbiamo poche grandi imprese, ma abbiamo molte, molte imprese medio-piccole e piccole. E se sapremo in qualche modo accompagnare uno sviluppo del sistema finanziario per queste imprese, ci saranno dei benefici sulla crescita importanti e ci saranno dei risultati per i risparmiatori. Certo. Allora, dottor Galli, devo andare in pausa perché devo raccontare la giornata di borsa di oggi, solamente magari un'informazione di servizio. Il salone è prevalentemente rivolto all'industria, agli operatori professionali. C'è anche quest'anno l'opportunità di... Sì, grazie per la domanda, sono tre giornate. Sì. È la settimana prepasquale, ma sorprendentemente stiamo registrando adesioni record. Abbiamo veramente, è impressionante perché evidentemente c'è un grande interesse. La terza giornata, che sarà giovedì 13, è dedicata anche al grande pubblico. Tra l'altro in quel giorno saranno presenti molti studenti che hanno deciso di partecipare a un progetto di sviluppo del capitale umano, faranno un incontro con l'SGR per poi glielo faccio raccontare bene, naturalmente. Peraltro è proprio la giornata anche della nostra conferenza, Nicoletta, per cui insomma siamo contenti. Si intitolerà Diseducato a chi, poi vi racconto i dettagli. Abbiamo anche noi raggiunto un bel tasso di adesioni, pur peraltro grave mancanza, non avendola neanche tanto reclamizzata appunto da cuore e denari. Cuore e denari. E proviamo insomma ancora a risparmiarne quanto più possibile, ce lo raccontava poco fa Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, che oggi è il nostro ospite qui a Cuore Denari per investire informati in diretta Facebook. E risalutiamo di nuovo tutta la platea dei nostri ascoltatori appassionati di social che ci seguono in realtà con grande fedeltà attraverso questo canale. E ricordiamo anche oggi, Nicoletta, che ci sarà il dottor Burioni che risponderà in diretta, tema molto importante. Sì. Sui vaccini alle 14.30 sulla nostra pagina Facebook. Tutte le vostre domande 14.30 15.30. Ecco, insomma, tema di servizio, perché non è banale proprio che il professor Burioni si metta a disposizione così. Anche no, il vaccino non è un'opinione e neanche tanto il risparmio, perché risparmiamo con grande fatica. L'altro grande protagonista del Salone del Risparmio edizione 2017 dall'11 alle 13 aprile alla ex fiera, la vecchia fiera di Milano, che però ancora è attivissima perché ospita un sacco di manifestazioni insieme a quella di Ro. E allora stiamo un po' anticipando i contenuti di questa edizione del Salone. La grande protagonista sarà la crescita economica, inseguendo la crescita, quindi si parlerà molto anche dei PIR, dei prodotti individuali di risparmio, la grande novità appunto del risparmio gestito di quest'anno, cui abbiamo dedicato peraltro anche già diverse trasmissioni, ma probabilmente ci torneremo. Detto questo, un altro grande tema di questa edizione del Salone, ma lo è stato anche nelle passate edizioni del Salone del Risparmio, è quello che vi proponiamo in questo brano. Solo un risparmiatore consapevole può cogliere le migliori opportunità di investimento. La cultura e l'educazione finanziaria sono quindi da considerare un obiettivo strategico per l'Italia e per chi offre servizi di investimento. Il risparmio rappresenta una risorsa cruciale per il bilancio delle famiglie e per il finanziamento delle imprese. Un ruolo crescente è svolto anche dalla formazione professionale. È in questo contesto che nasce l'idea di avviare il progetto Il tuo capitale umano, un'iniziativa con un duplice obiettivo: offrire ai giovani laureati la possibilità di trasformarsi in professionisti e presentare un'industria ricca di opportunità, con molte occasioni di formazione continua. Fabio Galli ci anticipava poco fa il progetto Il tuo capitale umano, ma prima le chiedo una considerazione su questo grande tema dell'educazione finanziaria. Ce lo troviamo ormai ad ogni tavolo, tutti hanno la loro ricetta per migliorare le condizioni, le cognizioni, le nozioni, chiamiamole come vogliamo, appunto finanziarie delle famiglie italiane. E oggi il nostro punto di riferimento è un po' questa famosa indagine Consob, che ancora una volta ha raccontato come la nostra preparazione su questi argomenti sia largamente insufficiente. Si fa molto, dottor Galli, a questa edizione del Salone, con che tono affronterete questa tematica? Ma noi torniamo sempre sui messaggi chiave dell'educazione. Normalmente nei paesi occidentali il problema fondamentale è quello di abituare le persone a risparmiare, quindi convincere anche già i ragazzini, le persone giovani, a mettere da parte qualcosa. Questo è meno un problema per l'Italia, perché come dicevamo prima esiste già questa capacità, chiamiamola culturale, chiamiamola sostanzialmente passata di famiglia in famiglia, all'idea che mettere da parte qualcosa serva per vivere bene. Il nostro problema invece viene dopo, cioè come investire. Allora, come investire è sostanzialmente un processo che deve essere il più possibile razionale, mentre noi siamo portati ad agire emotivamente e molto nel breve periodo. Poi le leggo anche un messaggio che ci racconta esattamente quello che ci sta dicendo lei in questo momento. Le regole per investire bene sono sostanzialmente poche, adesso ne citerò qualcuna. Primo, avere una disciplina per cui i comportamenti devono essere costanti, indipendentemente dal fatto che io oggi faccio questa cosa per una ragione contingente. La cosa migliore è investire poco, ma tutti i mesi, e non investire di botto una cifra grossa. La seconda è pensare agli obiettivi. Sono soldi che io metto da parte perché cosa devo farci? Certo. Voglio usare tra 5 anni per l'università? Esatto. L'educazione finanziaria non è solamente stabilire quanto rendimento mi può dare un prodotto se investo oggi e quanto ottengo nel giro di un mese, è proprio avere anche una sana dose di pazienza e avere dar una modo, visione di sé, ecco, delle proprie esigenze. E naturalmente il punto fondamentale è la relazione rischio-rendimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste l'idea della scommettitore che punta sul cavallo vincente. Esiste l'idea della diversificazione del rischio, e che se io voglio nel lungo periodo avere un pochino più di rendimento, dovrò passare attraverso maggiori rischi. Cosa vuol dire? Dovrò aspettarmi che durante il mio portafoglio, il mio investimento, magari in alcuni momenti mostri delle perdite. Non mi devo spaventare. Cioè, l'idea fondamentale è che io non agisco sulla base del momento, ma agisco sulla base di una pianificazione. Questa cosa che vale molto nella vita, su tutti i nostri comportamenti, certo, no? Certamente vale per la salute, ma vale in particolare, certo, per l'investimento, cioè la pianificazione, il guardare avanti e non farsi trascinare dalla decisione esterna. E poi guardate che, come dire, non c'è più trippa per gatti. Se immaginate un risparmio che vi consenta di moltiplicare a dismisura il denaro che riuscite ad accantonare, questi sogni di gloria ce li dobbiamo ormai, semmai è successo in passato, ma questo è solo il mondo della speculazione che riesce a fare questo, insomma, mettiamoci anche un po' di dose di illusione, cioè i nostri genitori investivano in titoli di Stato al 7, 8, 10%, poi c'era un'inflazione molto alta, ecco, e c'erano anche dei rischi che non percepivamo, perché noi non avevamo la percezione come abbiamo oggi di cosa facessero i mercati finanziari giorno per giorno. Oggi abbiamo una quantità di informazioni diverse a cui non siamo abituati, comunque non siamo stati abituati nel passaggio del tempo, e dobbiamo avere un approccio, un'idea di pianificazione, di visione a lungo termine. Questo ci darà dei grossi risultati. Il tema è molto importante, centrale. Adesso c'è anche una importante questione di fiducia nei confronti degli interlocutori che scegliamo per discutere di tutto questo, e c'è anche un tema di linguaggio usato da operatori, consulenti ed intermediari. Io quello che raccomando sempre ai nostri ascoltatori: se non capiamo una cosa, dire no non ci costa nulla, rinviamo magari una decisione, chiediamo un po' più di informazioni. Il tema è che magari quando una persona ha un gruzzoletto da parte deve in qualche maniera subito toglierselo di torno, forse non averlo lì a disposizione per evitare di cadere in tentazione, quindi lo piazza ovunque, certo, alla prima soluzione di investimento che poi un consulente propone. È un'esperienza molto forte, sia in un momento in cui i mercati vanno bene, sentire che tutti hanno fatto grandi risultati e quindi rincorrere quel risultato, o viceversa, in un momento di difficoltà e di crisi, spaventarsi e dire io mi devo togliere da tutto. Queste sono le due decisioni errate che si fanno. Si dice agire prociclicamente, cioè farsi prendere sull'onda dell'informazione del momento, comprare quando tutto è già salito, quando tutto c'è grande entusiasmo, e vendere nel momento di difficoltà. È esattamente il contrario che dovremmo fare. Casomai, se proprio dovessimo seguire una regola, è ragionare molto di investire nei momenti di difficoltà dell'economia, perché quelli sono momenti di maggiore opportunità in cui forse i prezzi degli investimenti si sono abbassati più di quanto dovremmo. E viceversa, non rincorrere l'investimento sull'onda dell'entusiasmo di chi ci sta intorno, infatti, parenti, amici e conoscenti. Che è per esempio quello che raccomandiamo in questo periodo da fare, se si guarda, non so, ad esempio al mercato americano, che è già su livelli record. Se volete prendere una posizione adesso, lasciatelo fare a chi si intende dell'andamento del mercato americano, ma insomma magari salire su questo treno in corsa rischiando di farsi male, bisogna adottare delle precauzioni. Allora, lo anticipavo poco fa, voglio ricordare che anche noi di Radio 24 ci siamo con la nostra conferenza giovedì 13 aprile alle 14:15. Abbiamo scelto un tema, se volete un titolo un po' provocatorio, diseducato a chi. Parleremo anche noi di educazione finanziaria o viceversa di questa diseducazione finanziaria, però abbiamo voluto proporre il tema in un modo un po' originale, perché un pochino, dottor Galli, glielo devo confessare, ci siamo stancati di sentire accusare sempre l'italiano medio, il cittadino, di essere non preparato e appunto, se non addirittura, completamente ignorante su questi argomenti. Chi fa magari dei lavori semplici, chi si occupa nella quotidianità di tutt'altro, non possiamo pretendere che riesca ad avere una chiacchierata adeguata con un consulente finanziario. Il tema è che forse anche dall'altra parte ci si deve sforzare di avere un atteggiamento etico un po' più alto rispetto agli standard che abbiamo visto. Quindi migliorare la, come dire, cultura finanziaria significa anche avere un po' di responsabilità da parte degli attori, dei consulenti, degli questo intermediari. Molto, che questo dice? Questo è molto vero, nel senso che il consulente finanziario che, con cui noi parliamo, l'impiegato di banca, deve avere un'etica esattamente simile a quella di un medico, che ha come suo, diciamo, giuramento fondamentale il fare il nostro interesse. Questo è scritto nella regolamentazione, è scritto nella norma, ma è anche e soprattutto una questione di cultura. Ora, questo passaggio da un modello di vendita del prodotto a un modello di consulenza, ovviamente anche lì richiede un grosso sforzo di formazione delle persone che lavorano come professionisti in questo senso. Infatti noi pensiamo che una delle colonne portanti dell'educazione finanziaria sia lavorare con i professionisti che se ne occupano, perché poi, come giustamente diceva lei, Non possiamo, certo, né io mi posso trasformare in medico, né un risparmiatore si può trasformare, esatto, in un esperto di finanza. Allora, tra l'altro, gli interlocutori che abbiamo scelto per animare questa tavola rotonda appartengono a mondi anche molto diversi. C'è Fabio Picciolini, che è un esperto da oltre 20 anni di consumerismo e soprattutto si è occupato moltissimo di contenzioso con gli intermediari finanziari. Poi ci sarà Sergio Sorgi, che è vicepresidente di Progeti, che è una importante società di consulenza. Stanno facendo con questa società un vastissimo lavoro sul territorio lombardo, in particolar modo con tante iniziative di contatto diretto con i cittadini per insegnare ed impartire le nozioni più importanti finanziarie. A noi aiuta molto sul tema della previdenza, quando non capiamo nulla di pensioni, gli amici di Progetica vengono sempre ad aiutarci. Poi ho voluto un po' scompaginare il parterre, perché abbiamo chiamato anche una giovane esperta di comunicazione, Domitilla Ferrari, è una influencer, come si dice nel gergo attuale, ci racconterà un po' che cosa ne pensa proprio questo mondo. Lei dice: io non sono più tanto giovane, però con i giovani è a stretto contatto. Che cosa ne pensano loro di questo dibattito? A proposito di giovani, posso salutare Giovanni, un nostro giovane ascoltatore. Giovanni, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Giovanni non ci ha chiamato spontaneamente all'800240024, ma ci aveva scritto qualche giorno fa una bella mail e noi naturalmente lo abbiamo subito contattato per chiedergli: ma te la senti di raccontare la tua esperienza in radio? Così gli facciamo rispondere, oltre che dagli esperti che abbiamo interpellato e che gli hanno già girato una bella risposta. Sentiamo anche che cosa ne pensa Fabio Galli di questo caso. e denari. Allora Giovanni, eccoci a te, ci hai scritto una bella mail che ci ha stuzzicato non poco, gli abbiamo fatto preparare intanto una bella risposta da parte della professoressa Giovanna Paladino, che è la direttrice e curatrice appunto del Museo del Risparmio. Giovanni, a Torino. Giovanni, vuoi sintetizzarci tu la richiesta che ci avevi fatto? Intanto quanti anni hai? Perché nella mail non ce lo racconti, ma noi siamo curiose, siamo un po' due mamme, io e Nicoletta, quindi più o meno... Certo, buongiorno a tutti, vi ringrazio l'opportunità. Io ho 24 anni e sono alla fine di una magistrale, almeno negli ultimi mesi della magistrale in economia aziendale, diciamo. E, vi chiedevo consigli perché fra poco... Pronto a spiccare il volo? Esatto, fra poco entrerò nel mondo del lavoro e quindi si spera anche comincerò a accumulare anch'io un po' di risparmi. Però pur facendo degli studi di tipo economico non mi sento prontissimo, vorrei capire quali sono le materie, quali sono gli strumenti per acquisire un'educazione finanziaria, cioè saper come gestire i miei risparmi. Anche perché Giovanni, tante volte veramente dalla teoria dell'università poi alla pratica della vita quotidiana c'è un bel abisso. Io posso fare questo esempio che magari non c'entra molto, ma mi ricordo quando ho comprato casa e non facevo ancora Radio 24, gli errori che ho fatto non lo sa neanche Gesù. Esatto, cioè oggi rifarei il procedimento in maniera del tutto diversa, però insomma questo per dire che effettivamente poi dalla pratica quotidiana delle questioni a quello che sappiamo a livello teorico c'è molta distanza. C'è una cosa specifica che vorresti sapere, Giovanni, oppure passo subito un po' alle considerazioni che possiamo fare per te con Fabio Galli? Beh, di specifico niente in particolare, però io non voglio diventare un trader, ecco. No. Vorrei solo sapere dialogare con cognizione di causa con un consulente finanziario, saper magari monitorare l'andamento del mio certo. Se raggiungo gli obiettivi che mi sono prefissi. Quindi, in generale, quali sono le materie o gli strumenti che devo focalizzare, su cui posso lavorare? Grazie Giovanni. Allora, intanto qua a 24 anni parte con questa grande consapevolezza, è già un po' avanti Giovanni, direi, no? Direi che è molto più avanti di quasi tutti noi, nel senso che chiunque arriva alla fine di un percorso universitario ha degli strumenti, in particolare in Italia soprattutto, degli strumenti teorici anche solidi, di cui non è difficile rendersi conto, ha poca esperienza, anzi quasi in molti casi quasi... L'unico modo, a mio avviso, non è tornare sui libri, ma incominciare, tra virgolette, a sporcarsi le mani. Ora, se uno studente ha 500 euro e siccome quando una persona è responsabile non fa danni, io gli consiglierei di aprire un conto di investimento presso una banca online e incominciare a guardare nel concreto cosa fare. Non significa fare un investimento in un titolo in borsa oggi per vedere cosa... Consiglierei di usare degli strumenti diversificati. Se uno lo vuol fare da solo, ci sono sia dei fondi di investimento... Anche perché molto ETF. Spesso queste banche fanno anche delle educational che possono Ci sono molti... Chi è abituato a usare internet troverà molta informazione... L'informazione si trova da molte parti, ma non c'è nulla come vivere sulla propria pelle l'idea che noi abbiamo sempre l'idea che se qualcosa va male ci è andato in malafede, qualcuno in malafede ci ha dato un consiglio. Non è così, nel senso che se uno prova a fare gli investimenti da solo, e certo 500 euro non è una cifra piccola, però non è nemmeno qualcosa che uccide nessuno di noi probabilmente, se possiamo permettercelo, provare a ragionare autonomamente, fare delle scelte di investimento e vedere come vanno, cioè incominciare a provare la freddezza anche, perché io domani decido che il Giappone va bene e decido che metto di quei 500 euro 100 euro su un fondo giapponese. Ho fatto i compiti, ho letto, conosco la politica giapponese, mi sono interessato alla situazione macroeconomica, mi sembra di capire che ci sono... Il giorno dopo che ho messo lì questi 100 euro, vado sul sito e vedo che quei 100 euro valgono 90, o 95, o 97. Vivere sulla propria pelle l'idea che non c'è niente di immediato, cioè bisogna prendere un passo indietro, bisogna credere alle cose, non ci sono risultati immediati, si fanno errori. Gli errori però si possono correggere, ci si può ragionare. Ci sono molti errori che si fanno, uno pensa raddoppio l'investimento, rimango fermo, disinvesto. Questi sono ragionamenti che uno deve fare nel concreto, e una volta che li ha fatti nel concreto avrà la capacità di dialogare molto meglio con chiunque dà consigli, perché capirà se quei consigli sono consigli pensati o sono consigli un po' buttati lì. Ma se uno ha provato quella sensazione emotiva della difficoltà dell'investire, del capire come vanno le cose, del prevedere come vanno le cose o del ragionare coerentemente, è un esercizio, una palestra, è come iniziare ad andare in palestra. Il primo giorno uno lo fa con pochi... L'acido lattico ti arriva fin sopra le orecchie, dopodiché pian piano... Pochi pesi, ma ben gestiti, con un po' di consigli. E magari una chiacchierata adeguata con il trainer iniziale, perché Giovanni naturalmente deve anche avere, perché ha un lunghissimo orizzonte temporale di fronte a sé, però non è detto che qualche obiettivo finanziario non ce l'abbia. Potrebbe avere una fidanzata, volersi sposare fra 5 anni, quindi avere bisogno di accantonare qualcosa per comprare la sua casa, oppure se decide di andare in affitto in un'altra città, comunque magari un accantonamento per questa esperienza gli serve. Quindi anche ragionare per obiettivi è molto importante. E ragionare su quando e come mettere da parte, cioè se io voglio avere 10.000 euro tra 5 anni, non è detto che devo cercare di avere tutto subito. La cosa migliore è capire ogni mese quanto devo cercare di mettere da parte e farlo costantemente, ma programmando come metterlo da parte. Provare questa cosa direttamente è una palestra incredibile. Certo. Giovanni, peraltro, non gli abbiamo fatto produrrà irisina, ma qualche cosa esatto. Per ricollegarsi. Una bella coltivazione di irisina, un bel investimento. No, stavo guardando, appunto, me lo segnala Marco, che Giovanni ci ha chiamato da Vicenza. Io direi che un giretto al Salone del Risparmio il terzo giorno se lo può anche fare per annusare un po' anche e respirare l'aria della finanza, che magari lo intossica un po', ma non è detto che invece magari lo appassioni. No, soprattutto perché ci sono anche molte opportunità di venire a contatto con molte persone che fanno questo e avrà diversi punti di vista. E, no, siccome Giovanna Paladino lo ha invitato ad andare a visitare il Museo del Risparmio, perché non chiamarlo anche a visitare prima il Salone del Risparmio? Viaggerà molto questo Giovanni. Giocate sul sito con il programma, c'è un'agenda ricchissima. Ci sono veramente molte conferenze con un taglio diverso, c'è chi è più macroeconomista, chi vuole pensare alla psicologia dell'investimento, chi vuole parlare con le persone che hanno molta capacità, l'empatia di vedere quali sono i temi del lungo termine, quindi quelle cose più immaginifiche, futuristiche. Ognuno può scegliere un taglio per assolutamente fare un passo avanti. E si porta a casa un sacco di brochure, perché un'altra cosa folcloristica che noto al Salone è che quando partecipano dall'esterno tante persone portano a casa l'inverosimile, come se leggessero tutti questi depliant delle società di gestione dei risparmi. Mi ha sempre molto incuriosito questa attitudine. Allora sì, abbiamo terminato, perché devo chiudere alle 55:30, ma mi pare di capire che il tempo è terminato. Non c'è la sigla. Galli, grazie per essere stato con noi, voi. Ci vediamo al salone. In bocca al lupo, ci saremo anche noi. Intanto, Nicoletta, noi torniamo domani. Sì, vi aspettiamo. C'è Salute Uomo.